Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda le borse, oggi vi dico subito che c'è un leggero recupero su tutte le piazze, in particolare Milano più del 90%, con Unicredit più 6,44, UbiBanca più 5,80, Monte dei Paschi più 4,80, come la Pop Emilia Romagna, il Banco Popolare più 4,70, Pop Milano più 4,20, Unipol più 4,20% anch'essa. I migliori titoli, come sentite, del FTSE MIB sono appunto tutti di carattere bancario. Inizialmente le borse erano più deboli, deluse dal mancato taglio dei tassi della Bank of England, poi ha aperto Wall Street che adesso guadagna quasi un punto percentuale, Parigi più 1,25, Francoforte più 1,50, Londra più 0,11. Unicredit cresce nonostante l'annuncio dell'aumento di capitale. E invece sulla Popolare Emilia Romagna, come avvenuto ieri anche per altre banche e soprattutto per Unicredit, la cessione di sofferenze per un valore di 450 miliardi lordi riaccende l'interesse sulle banche popolari e anche sul Monte dei Paschi, più 4,60%. Va male invece tra i titoli, non nel listino principale perché di debole c'è solo Terna, meno 1,35, Snam, meno 1,15, nel listino complessivo invece oggi è debole Rizzoli Corriere della Sera per quello che riguarda la battaglia in corso, l'abbiamo raccontata più volte, il titolo perde il 6,80%, è arrivato a perdere anche l'8%, oggi diciamo, si conclude la possibilità di acquistare azioni nel confronto. Da una parte quindi si possono portare i titoli e si potevano fino ad oggi portare i titoli per aderire da un lato all'OPA della quotata di Andrea Bonomi oppure dell'offerta pubblica di scambio di Urbano Cairo. Si chiudono domani, quindi oggi è l'ultimo giorno. Tra l'altro si sono sgonfiati i volumi oggi su RCS, ieri era stato scambiato l'8% del capitale quasi, oggi siamo allo 0,8% di scambio del capitale. Parleremo di borsa, ma parleremo anche di nuovo del disastro ferroviario in Puglia, non solo per le dichiarazioni, ancora un po' da contestualizzare, lo dico subito, del presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone, il quale ha detto il disastro ferroviario in Puglia evidenzia un oggettivo collegamento con la corruzione. Cantone poi ha aggiunto è frutto probabilmente di un errore umano, ma anche conseguenza di un problema atavico del nostro paese di mettere in campo infrastrutture adeguate. Sapete già dai nostri GR24 che ci sono i primi indagati, anche se i PM della Procura di Trani non hanno voluto confermare che sono per ora due gli indagati. È importante la dichiarazione del PM di Trani, il quale dice sicuramente, o meglio, il tema è l'errore umano, ma non solo questo. E da questo punto di vista ne parleremo, perché non solo questo vuol dire che c'è sicuramente l'errore umano di mezzo. A questo punto i dubbi sono praticamente inesistenti, ma si vuole anche capire, e qui riguarda come tema il nostro programma, perché non si è adeguata la tratta pur a disposizione i fondi europei da 180 milioni. Oggi il ministro Del Rio ha detto attenzione, da questo punto di vista le opere erano in ritardo anche per i tempi dell'Unione Europea. Se la regione deve discutere per 4 anni con Bruxelles se un progetto va bene o male, è evidente che le cose non funzionano, va via più di metà della programmazione. I fondi non sono stati persi ma spostati al 2014-2020 e risponde in qualche modo Bruxelles tramite il portavoce della Commissione che le autorità di gestione degli Stati membri sono responsabili per il completamento e il monitoraggio dei progetti cofinanziati dall'Unione Europea. I soldi dell'Unione Europea sono sempre infatti di cofinanziamento, non sono gli unici soldi, il resto lo deve mettere lo Stato, il paese a cui vengono dati questi fondi. Ripeto, c'è il fronte giudiziario, ma c'è anche il fronte di investimenti. Dalle stime che stiamo facendo e che stiamo vedendo, l'investimento per mettere in sicurezza il tratto mancante, poco più di 30 km mancanti in cui diciamo, la comunicazione avveniva, come mai abbiamo capito, via telefono, era sostanzialmente di 4 milioni di euro, 100.000 euro a chilometro. Quindi con il sistema ERTMS che garantisce la comunicazione tra treni bastavano 4 milioni di euro. Ora è facile fare della demagogia, del populismo, però faccio notare che con quello che abbiamo raccontato in questi anni di sprechi anche nel mondo ferroviario, 4 milioni sono un'inezia, lo sono, ma soprattutto non sono nemmeno paragonabili al danno umano e al disastro umano che c'è stato. I PM della Procura di Trani che indagano sull'incidente hanno avviato una serie di accertamenti per individuare eventuali responsabilità all'interno anche dell'Ufficio Trasporti e Impianti Fissi, l'USTIF di Bari, che è l'organo che citavamo già ieri, periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale doveva dare l'autorizzazione e controllare che venisse rispettata la legge in tema, anche in questo caso, di sicurezza. Di questo parleremo, così come parleremo del rapporto sulla povertà oggi diffuso dall'Istat, che stima come sostanzialmente nel 2015 si sia arrivati a un livello il numero più alto dal 2005 di famiglie in condizioni di povertà assoluta, pari a 1.582.000 famiglie e 4.598.000 persone. La povertà assoluta, lo ricordo, è, da un punto di vista statistico, quando tu hai una disponibilità economica che non raggiunge una determinata soglia. Per esempio a Milano, che varia in base al reddito medio nazionale, ma anche soprattutto a diversi criteri anche di carattere locale. Faccio un esempio: a Milano una famiglia con padre, madre e due figli a carico, se è residente a Milano, perché si considera anche il costo della vita, versa in una situazione di povertà assoluta se guadagna meno di 1.677 euro al mese. Questo a Milano con padre, madre e due figli a carico. Chiaro, insomma, è una cifra in cui difficilmente puoi parlare di qualcosa di diverso che non sia la povertà assoluta. E anche di questo parleremo. 349, dicevo, 238-6666 per SMS e WhatsApp. Subito le notizie in breve. Continua la polemica, partiamo in maniera un po' faceta, continua la polemica in Francia sull'austerity, che riguarda in questo caso le spese del barbiere personale di François Hollande, tale Oliver B. Perché? Perché l'ha scoperto il settimanale satirico Le Canard Enchaîné, che spende 10.000 euro al mese per curare la sua pettinatura. So già che è diventata virale sul web, e in Francia però continuano, perché sostengono che un taglio per uomo da buon parrucchiere costi 45 euro, e anche se lui avesse il parrucchiere ogni giorno dovrebbe costare 1.345 euro al mese, non 10.000 euro al mese, e la cosa ormai sta assumendo contorni onestamente grotteschi, perché il parrucchiere sostiene che ha dovuto lasciare la sua boutique e il lavoro inizia sempre di buon'ora, visto che ogni mattina presto il presidente si fa sistemare la chioma, insomma, nel caso di Hollande è forse eccessivo, e poi deve seguirlo nei frequenti viaggi. Vabbè, lasciamo la Francia alle polemiche sul parrucchiere di Hollande, mentre, come già ricordavo oggi, venendo a cose più serie, la Bank of England ha lasciato i tassi invariati, quindi nessun taglio di interesse. Per quello che riguarda dei tassi di interesse, per quello che riguarda l'Italia, il Fondo Monetario è tornato a ricordare che il sistema bancario italiano deve ristrutturarsi per diventare più forte e redditizio. Il ministro alle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha detto che una soluzione al problema italiano delle banche è possibile con le regole attuali. Tra l'altro ha detto che bisognerà poi aspettare gli stress test, il risultato degli stress test dell'EBA, cioè i test che vanno a verificare come reagirebbe la banca di fronte a uno scenario catastrofico, 3 anni di recessione, insomma, la peggiore delle situazioni possibili. C'è chi li contesta perché dice: ma attenzione, se avessimo da affrontare una situazione del genere, il problema non sarebbe la tenuta delle banche, ma la tenuta del, diciamo, del paese stesso. Quindi sono fatti in maniera eccessivamente stressante questi test. Questa è una polemica che abbiamo letto nei giorni scorsi. Ma insomma, dicevo, Schäuble ha detto: attendiamo gli stress test, al momento non ci sono ragioni per pensare a sviluppi negativi. E poi invece la commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager, ha detto, rispondendo a una domanda sulle banche italiane: beh, le banche e tutta l'Unione Europea attraversano momenti difficili, non stupisce che vi sia una forte reazione del mercato alla Brexit, l'importante è che quando usiamo le regole approvate da tutti, esse siano adattate alla situazione specifica dei paesi. Nel frattempo, per quello che riguarda le banche coinvolte qui di fronte agli scandali bancari, ieri abbiamo raccontato dell'azione di responsabilità votata dal Consiglio di amministrazione della Poste di Vicenza nei confronti dei vecchi vertici, quella che non era passata nell'assemblea, mentre dopo gli avvisi di garanzia a carico di 17 ex dirigenti e amministratori della Cassa dei risparmi di Ferrara, una delle quattro coinvolte nel crack, diciamo, di novembre, quindi Cari Ferrara, Cari Chieti, Popolare Etruria e Banca Marche, dopo la visita di garanzia di 17 dirigenti sono scattate le perquisizioni nelle sedi di quattro banche italiane che hanno partecipato all'aumento di capitali di Cari Ferrara: Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di Cividale, Banca Popolare di Valsabbina, Brescia, e Cassa di risparmio di Cesena. A questo punto le persone che hanno ricevuto un avviso di garanzia per la vicenda Cari Ferrara sono 21, lo ha confermato la Guardia di Finanza di Ferrara. Le indagini della Procura di Ferrara legate all'aumento di capitale della Cari Ferrara del 2011 hanno portato anche alla perquisizione nella stessa sede della banca e in una società controllata, e oltre che nelle quattro banche che prima ho citato. Il tema di cui si è occupato poco fa Oscar Giannino, la bocciatura che è arrivata dalla Corte Europea sulla proroga automatica decisa dall'Italia per le concessioni demaniali marittime e lacustri fino al 31 dicembre 2020. Che cosa sono? Sono le concessioni balneari. Visto che siamo d'estate, immagino che molti ascoltatori, quando vanno al mare o al lago, utilizzino dei bagni che hanno la concessione balneare. La polemica da sempre qual è? È sui costi, perché si lamenta da più parti che l'affitto che chiede lo Stato è bassissimo rispetto agli introiti, rispetto a quello che è il giro d'affari dei bagni, chiamiamoli bagni, insomma, delle concessioni balneari, che siano in Adriatico, in Tirreno, al sud, interessa poco. Ma cosa dice la Corte Europea? Dice sostanzialmente che c'era stata una causa che coinvolgeva gestori sardi e poi anche la Promo impresa che opera sul lago di Garda. I giudici europei hanno sentenziato che il diritto dell'Unione è contrario alla proroga automatica in assenza di gare, in particolare per le strutture con interesse transfrontaliero certo. Poi ha risposto oggi il ministro per gli affari regionali e autonomie Enrico Costa, che ha detto che il governo sta lavorando ha già lavorato per predisporre le basi e i principi di riordino dell'intera materia. Dovranno essere tutelati gli investimenti e valorizzate le esperienze e le professionalità di coloro che rappresentano le colonne portanti del turismo balneare del nostro paese. Qui il tema l'abbiamo già affrontato altre volte, insomma, lo scontro è molto facile da raccontare. Perché da un lato gli operatori dicono: noi facciamo turismo, manteniamo le spiagge, creiamo attrezzature, luoghi di recettività turistica, e quindi diamo valore e poi paghiamo le tasse e quindi, insomma, il nostro contributo è anche quello, non potete penalizzarci perché valorizziamo il pezzo di spiaggia, per dirlo in maniera brutale, che ci viene dato in concessione. Dall'altra parte si dice: sì, ma le concessioni sono regalate, e in alcuni casi obiettivamente così regalate, nel senso che hanno dei prezzi bassissimi. L'Unione Europea in realtà non entra sul prezzo, ma dice semplicemente che tu non puoi rinnovare in automatico, devi porle a gara, e qui si apre un'altra polemica e dice: va bene, se le poniamo a gara, attenzione, dicono i soggetti che gestiscono i bagni, che rischiamo di essere colonizzati da chi ha massa critica, soldi, quindi insomma lo spauracchio come sempre, diciamo, dei grossi, dei grandi. Però è un'obiezione che a mio avviso ha poca consistenza, da un lato perché vale per tutti i settori, cioè se c'è la concorrenza e c'è un commissario europeo alla concorrenza vale anche per le spiagge balneari, no? Allora non è che puoi dire no, ma io ho un ruolo sociale. No, attenzione, se è un'attività privata come altre, guadagni, paghi le tasse in base alle dichiarazioni che fai. Ma dall'altro è tutto da dimostrare, cioè l'Unione Europea si pone ormai, o pone al centro il cittadino consumatore, per cui il problema è capire se questo viene fatto nell'interesse mio o no, non nell'interesse di chi gestisce la concessionaria, perché ci arrivo anche da solo a capire che chi ha una concessionaria con prezzi d'affitto bassissimi tende a dire no, non vogliamo la concorrenza, perché poi, però il mio interesse come cittadino è che lo Stato incassi il più possibile da queste concessioni, abbiate pazienza. Poi alcuni scrivono ma intanto pagano anche le tasse, ho capito, ma vale per tutti noi, cioè anche chi ha un esercizio commerciale poi paga le tasse, ma in concorrenza in un mercato aperto, per cui non capisco veramente l'obiezione. Non è che siccome paghi le tasse non devi avere la concorrenza. Comunque i 18.000 stabilimenti balneari sono in Italia, 30.000 le concessioni demaniali, 1 milione gli addetti compreso l'indotto, 16 miliardi il giro d'affari annuo, su 7.800 km della costa italiana 900 sono occupati da stabilimenti balneari. L'agenzia del demanio nel 2010 certificò che su 573 stabilimenti che andò a verificare, 551 erano fuori regola. Quando parlo di cifre irrisorie, beh, non è che sia un giudizio di valore. La media, la posizione, cioè, quando si paga sostanzialmente la posizione in riva al mare, è di 5,70 euro al metro quadro in media. Per cui, insomma, ma soprattutto, ripeto, l'Unione Europea non va a contestare il prezzo qui. L'Italia affitta le sue spiagge a dei privati, dice che devi porle a gara e non puoi fare rinnovo automatico. Poi adesso vedo già i messaggi su quanto guadagna, ma a me non interessa, voglio dire, non stiamo valutando quant'è il guadagno. Lo so anch'io che evidentemente il guadagno deve essere alto se nella maggior parte dei casi ti permetti di lavorare 4 mesi l'anno, poi uno dice ma faccio l'investimento durante il resto dell'anno, ho capito. Però anche lì non generalizziamo, perché è chiaro che lo stabilimento balneare in zone particolarmente care, non so, cito uno su tutte, la Versilia, la Liguria, dove c'è, prezzo degli immobili sono altissimi, i prezzi degli stabilimenti sono alti, avranno un guadagno diverso rispetto a stabilimenti balneari in zone più popolari. Quindi sarebbe anche sbagliato fare della demagogia ricordando solo chi guadagna di più e non tutti gli stabilimenti balneari. Il tema è un altro, l'investimento non sulla struttura, benissimo, però scusatemi, i dentisti, i professionisti sono in concorrenza, gli operatori del mondo del commercio sono in concorrenza, sì, e allora sarà in concorrenza anche lo stabilimento balneare, si mette a gara, se c'è qualcuno che rilancia vuol dire che vede in quella concessione un margine alto e può permettersi di spendere di più per la concessione. Se invece quella concessione non ha dei grandi margini, nessuno alla gara parteciperà, solo il vecchio concessionario, gli altri non arriveranno. Si chiama efficienza di mercato, non è che non può valere per gli stabilimenti balneari, abbiate pazienza, su. Allora dai, adesso andiamo, siccome dobbiamo parlare poi del piani anticorruzione di Cantone, di quanto è successo in Puglia, vorrei prima di arrivare a questo tema ascoltare invece di cosa si è discusso oggi nel primo forum sull'economia digitale, il FED, Forum Economia Digitale, organizzato da Confindustria Giovani e assieme al gruppo Facebook. Il ministro Madia ha detto oggi, intervenuto al forum FED, che vanno migliorati i servizi digitali, e soprattutto ha citato il fatto che saranno utilizzati gli 800 milioni di risparmi previsti nei prossimi tre anni con la semplificazione della pubblica amministrazione per i servizi. Questi soldi verranno utilizzati per i servizi digitali della pubblica amministrazione. Il piano, che prevede il risparmio di 800 milioni in tre anni, deriva dall'attuazione di una norma approvata nell'ultima legge stabilità, che prevede che ogni risorsa risparmiata nella spesa corrente per l'informatica sia vincolata poi ad essere investita in progetti innovativi che devono essere vagliati dall'Agenzia per l'Italia Digitale. L'idea è che a maggior ragione sulle risorse che si spendono per l'innovazione e per l'informatica non ci possa essere neanche un euro sprecato e che ogni euro debba andare veramente e solo a progetti innovativi. E tra l'altro, noi da che cosa otteniamo il risparmio? Da progetti innovativi che siano integrati in un sistema paese. Il risparmio ci viene soprattutto dal fatto che le grandi infrastrutture nazionali che noi abbiamo introdotto, la fatturazione elettronica, il pago PA, lo SPID, in prospettiva l'anagrafe unica, ci consentono di avere delle economie di scala e quindi di poter usare le risorse che abbiamo per migliorare e investire ancora di più in innovazione. Avevo dubbi che sarebbero arrivati molti messaggi al 349-238-6666 sugli stabilimenti balneari. Un po' di pazienza, vorrei farvi ascoltare invece sempre sul tema della digitalizzazione del paese, visto che dopo parleremo invece della parte di infrastrutture classiche, perché parleremo anche degli investimenti infrastrutturali e di carattere edilizio. Oggi si è svolta l'Assemblea Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia. Ma dicevo, ascoltiamo anche il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Marco Gai, che ha spiegato al nostro Adriano Palazzolo come si possa passare dall'economia tradizionale a un'economia digitale. Cercando di innovare, partendo dal talento che abbiamo e con la visione che il mondo è cambiato e quindi mettendo vicino chi fa innovazione, che siano esse start-up, PMI innovative, con chi fa tradizione, qualità e eccellenza, che sono il nostro grande patrimonio di piccole e medie imprese. Che cosa comporta in termini di sviluppo per le imprese la rivoluzione digitale? A livello di paese è una crescita di 2 punti di PIL, 700.000 posti di lavoro in più. Comporta per le imprese il fatto di potersi internazionalizzare magari sviluppando un e-commerce per iniziare a capire come funziona questo mercato e comporta il fatto di essere ancora più competitivi. Quali sono le vostre proposte? 4 punti, partiamo dalla formazione, quindi il digitale è una cosa che si vive e con cui ci si contamina, si parte dalle scuole, magari inserendo dei corsi di coding per far capire ai ragazzi anche questo tipo di mentalità e nelle aziende mettere nei consigli di amministrazione un esperto di digitale proprio per favorire questa contaminazione, favorire gli investimenti in capitale di rischio nelle start-up e nelle PMI innovative, perché l'equity è strategica e quindi spostarci dal debito all'equity in maniera da poter innovare ancora più velocemente. Infrastrutture, materiali importantissime, anche le immateriali. Anni che si parla di banda larga, oggi siamo al punto in cui si dovrebbe partire, quindi speriamo che si faccia bene e si faccia in fretta. Non ultimo punto, quello relativo al fatto di avere poi una visione di sistema. Ogni azienda è legata a se stessa, favorire filiere, favorire distretti che sono sempre più diffusi grazie a una visione strategica in cui l'economia digitale può fare l'acceleratore. Qui parliamo di infrastrutture digitali e tecnologiche, ma una battuta sulle infrastrutture dei trasporti è d'obbligo dopo quello che è successo. È un dramma, non solo è stato un dramma, è il segno che c'è un'Italia a 2 velocità. L'innovazione serve anche a questo, a prevenire certi disastri, a modernizzare il nostro paese e a rispettare quello che si è pianificato di fare. Spesso si stanziano i fondi e questo è uno dei casi, poi non vengono fatti gli investimenti per 1000 cavilli burocratici. È il momento di guardare seriamente anche con piani di politica industriale ambiziosa al nostro futuro, perché le tragedie possono succedere, ma le tragedie che succedono perché non si è fatto quello che si doveva e poteva fare non devono succedere. Per tutto quello di cui abbiamo parlato, il governo sta facendo abbastanza? Il governo sta, diciamo, imboccando la strada del fare le cose. Molte cose si stanno portando avanti. È chiaro che chi fa impresa, chi parla di economia digitale, chi parla di futuro, chi tutte le mattine pensa al prossimo triennio, al prossimo quinquennio, vuole molta più velocità, e quindi noi siamo qua anche per affiancarci, ma stimolare ad andare sempre più veloci e essere sempre più concreti. E avete sentito Marco Gai citare anche gli investimenti infrastrutturali, non solo quelli digitali, anche infrastrutturali veri e propri. Oggi si è tenuta l'assemblea annuale dell'ANCE, che raggruppa oltre 20.000 imprese private nel mondo delle costruzioni, opere pubbliche, edilizia abitativa, commerciale, industriale, tutela ambientale, promozione edilizia e lavorazioni specialistiche, e il presidente Claudio Albertis, dopo aver chiesto un piano di rilancio delle costruzioni da 30 miliardi e per le periferie di 5 miliardi, ha chiesto una moratoria sul codice appalti o vi sarà il blocco dei cantieri. È in collegamento con noi il presidente dell'ANCE, De Albertis. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ecco, perché avete chiesto una moratoria sul codice appalti? E non è che abbiamo chiesto una moratoria tout court, abbiamo semplicemente detto: siccome vediamo che le stazioni appaltanti hanno una certa difficoltà a trasformare i progetti definitivi che hanno nei cassetti in progetti esecutivi, noi abbiamo chiesto al Parlamento, al Governo, che almeno al 31 dicembre sia possibile ancora mettere in gara le opere col sistema del progetto definitivo e quindi dell'appalto integrato. Questa è l'unica moratoria che noi abbiamo chiesto, nient'altro. E per quello che riguarda gli investimenti, confermate che c'è stato un rallentamento degli investimenti pubblici? Perché poi questo è il problema. Per quanto riguarda le opere pubbliche che riguardano il nostro settore, per cui escluso le reti, voglio dire le infrastrutture immateriali, come possono essere voglio dire la banda larga e quant'altro, c'è stato un sensibile calo. Chiaro che ogni volta che c'è una rivoluzione un calo c'è. Ma mentre nel 2006 questo calo nei lavori pubblici veniva a, come dire, a situarsi in un momento in cui tutto il resto delle costruzioni volava, oggi siamo a 9 anni di profonda crisi. Quindi di questo noi siamo profondamente preoccupati. Presidente, un'ultima domanda. Voi avete chiesto un piano di rilancio delle costruzioni da 30 miliardi e per le periferie da 5 miliardi, ma con che soldi? Guardi, in giro di soldi ce ne sono tantissimi. Bisogna cercare di mettere a regime questi soldi. Prenda il piano delle periferie, 500 milioni. Si danno 90 giorni di tempo ai comuni per tirare fuori i progetti. Sono progetti vecchi, stantii. Io credo che invece tutte queste risorse vadano messe a fattor comune, definite delle strategie delle città ben precise. Se no, altrimenti sono, a mio giudizio, soldi sprecati. Presidente, io la ringrazio perché so che lei deve tornare perché siete ancora in corso di assemblea. Grazie, mi interessava capire questi due aspetti. Io vi voglio far riascoltare però sul codice appalti, visto che arrivano molti messaggi. Che cosa disse, perché molti lamentano che sul codice appalti ci sia molta confusione, che cosa disse lo scorso 10 giugno al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria Santa Margherita Ligure il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, Pier Camillo Davigo, proprio sul codice degli appalti. Noi andiamo da anni, da decenni direi, riformando in continuazione la normativa sugli appalti, non noi magistrati, il Parlamento, sugli appalti, creando regole sempre più stringenti che danno fastidio alle imprese per bene e non fanno né caldo né freddo alle imprese delinquenziali. Non solo perché qualche volta i bandi sono fotografia, cioè li può vincere solo chi è descritto nel bando in un certo modo. Capita ancora, sì. No, ma non lo dico così, mi avevo già buttato capita ancora. E allora, cioè, nonostante il nuovo codice degli appalti, è tutta roba che non serve a niente. Perfetto. Se si vogliono affrontare queste cose, non serve fare la normativa sugli appalti, serve fare le operazioni sotto copertura. Si mandano ufficiali di polizia giudiziaria, cioè, o persone interposte, l'infiltrato che va lì, finge di essere un imprenditore, quando gli dicono tu a questa partita non puoi giocare, li arresta. È un po' sintetico, un po' brutale, ma voglio dire, forse è più efficace di un rinnovo continuo di codice degli appalti, che appunto per definizione degli stessi costruttori Qual è il problema? Lo dico a chi sta scrivendo. Il nuovo codice degli appalti obbliga le stazioni appaltanti a mettere in gara solo appalti basati su un progetto esecutivo, e questo, secondo i costruttori, impedirà di fatto la messa in gara di tutti i lavori concepiti secondo la logica dell'appalto integrato. Il nuovo codice è una rivoluzione da condividere, ma serve un periodo transitorio. Di questo stava parlando prima De Albertis. Allora, vedo molti messaggi ancora sui balneari. Vabbè, risponderò e leggerò dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo intanto sul meteo. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, il disastro in Puglia. Sugli stabilimenti balneari la chiudo velocemente. Guardate, uno può pensarla come vuole, può pensare che... però, dunque, anche Radio 24 dovrebbero cercare nuovi giornalisti ogni anno, ma guardate che noi siamo sul mercato, c'è sempre questa battuta. Ma voglio dire, la concorrenza tra le radio, tra la televisione, ci si fa, si cambiano i programmi, i palinsesti. Qualcuno mi scrive: volete che finisca come per i bar in mano ai cinesi? Ma attenzione a queste balle storiche. I bar che hanno comprato i cinesi erano bar che evidentemente non giravano. Avete mai visto un bar con un grande margine bello comprato dai cinesi? Io no, erano bar che facevano, mi passino il termine, non erano granché prima e non sono granché dopo, posso dirla così? Ecco, per cui continuare a evocare poi verranno i cinesi a comprare le nostre spiagge, ma dipende per fare che cosa. Altri scrivono: bene, così poi verrà messa in gara la concessione, verrà venduto a un prezzo più alto e noi pagheremo di più come utenti. Ma questa è l'obiezione classica per chi è contro ogni gara e concorrenza. Ma scusatemi, ma in un mercato, se il tuo stabilimento inizia a alzare i prezzi perché ha pagato tanto e vuole mantenere i suoi margini, uno va in un altro stabilimento, cioè si chiama mercato. Se uno alza i prezzi troppo, vado a comprare la cosa da un'altra parte, a meno che tu non sia in una condizione di monopolio. Dopodiché, se volete dirmi che i prezzi degli stabilimenti balneari sono prezzi popolari, diciamo calmierati, avete visto un altro film. Io che li frequento, devo dirvi che i prezzi sono belli alti, altini, e mi sembra che anche i guadagni quando vengono venduti i vari stabilimenti siano alti, altini. Fermo restando che non tutti sono uguali, ci mancherebbe, che ci sono diversi stabilimenti con margini più bassi, quello che volete, ma si chiama concorrenza. Se tu apri un bar, un ristorante, un esercizio commerciale, hai la concorrenza uguale, no? Poi, ti ripeto, nessuno toglie quelli che, nega quelli che sono gli investimenti dei gestori, pro domo loro, giustamente, cercano di investire nel bagno e di farlo in base al loro obiettivo di clientela. Se vuoi quelli ricchi lo farai, investirai in un certo modo, se punti più al mass market investirai in un altro. Su, ma si chiama, vale per tutti, non è che adesso bisogna le concessioni con rinnovo perpetuo alle famiglie, e per favore, dai. Comunque andiamo a cose più serie, o meglio più gravi. Il disastro ferroviario in Puglia. Allora, qua tocca diventare esperti. Sapete quanto sarebbe costato mettere il sistema, diciamo, sostanzialmente RMTS, quello che garantisce la comunicazione tra treni? Costava 4 milioni di euro, non sono neanche da paragonarsi con le vite umane. Però 4 milioni di euro, questo permette la comunicazione tra i treni. Poi c'è l'SCMT, il blocco elettrico, che controlla il traffico attraverso sensori posti sui treni e lungo i binari. Poi c'è l'SSC, sistema supporto condotta, verifica la regolarità della marcia dei treni in relazione alle indicazioni segnaletiche. Qui, oltre alla tragedia vera, c'è anche la beffa. A 40 km dal luogo del disastro sorge la Mermec, che è un'azienda gioiello leader. Indovinate che cosa produce la Mermec a 40 km da Andria? Beh, produce proprio sistemi di sicurezza per la rete ferroviaria. E forse anche per questo che il procuratore parla di Trani, Francesco Giannella, dice: è giusto parlare di errore umano, ma è riduttivo. Parlare di errore umano è corretto, ma è assolutamente riduttivo. Il presidente dell'anticorruzione parla anche di corruzione in questa vicenda. Lei cosa si sente di dire? Se vogliamo allargare il discorso a una tematica di carattere generale, è chiaro che, ma ripeto, non so fino a che punto c'entri con questa vicenda, che l'eccesso di burocrazia e l'eccesso di competenze è una fonte di inefficienze e nelle inefficienze si annida la corruzione. Questo è chiaro, lo sappiamo tutti. Allora, qualcuno mi chiede di andare a controllare, adesso non voglio più parlare dei bagni, per favore, stiamo parlando della Puglia, con le dichiarazioni dei redditi. Vabbè, andremo a vedere anche le dichiarazioni dei redditi degli stabilimenti balneari. Andiamo avanti invece sulla Puglia. Questo è gravissimo, nel senso che è grave il fatto che bastassero 4 milioni di euro. Ed chiedo e ringrazio per averci aggiunto in collegamento al professor Ugo Arrigo, che insegna finanza pubblica all'Università Milano Bicocca. Buonasera, professore. Buonasera. Perché ieri anche complice il ministro Del Rio tutta la polemica è nata sul binario unico, ma binario unico da quello che abbiamo capito non c'entra niente, cioè tu puoi avere binario unico e avere dei sistemi di sicurezza migliori della telefonata, no? Del blocco telefonico, il capostazione che chiede per iscritto con un dispaccio via telefono l'autorizzazione alla partenza del treno, capostazione successivo, il capo della stazione successiva da via libera alla partenza sempre con un dispaccio telefonico, il capostazione del treno in partenza deve aspettare nulla osta dal collega. È ovvio che se c'è un errore umano qui dentro si infila, Enrico. Diciamo che la cosa più sconcertante di quello che è accaduto, che è una tragedia che era assolutamente evitabile, è il fatto che vi siano regole non uniformi a seconda delle reti esistenti in Italia. La rete ferroviaria principale ha regole molto stringenti, ha un elevatissimo livello di sicurezza, poi ci sono reti periferiche, reti regionali, in cui io stesso ho scoperto, pur occupandomi da tanti anni del settore, che sostanzialmente la sicurezza è lasciata alle scelte del gestore di rete. Non è possibile che le regole non siano uniformi. Il codice stradale, per fare un esempio comparabile, è uguale per tutti, quindi noi tutti dobbiamo rispettare le stesse regole generali per circolare con le automobili. Sì, questa è follia. Non si debba fare con i treni. E allora le faccio ascoltare Umberto De Gregorio, che è il presidente del Benevento Cancello e la Circumflegrea, al microfono la nostra Livia Zancanelli, il quale chiarisce come in Italia ci sono 3.300 km di rete ferroviaria non controllata dalla Rete Ferroviaria Italiana, ma in concessione a terzi, enti pubblici o privati, come la EAV, appunto, che in Campania gestisce 240 km. E lo stesso De Gregorio, presidente della EAV, chiarisce che un terzo è binario semplice, e i sistemi di sicurezza dentro questo terzo a binario semplice sono in più variegati. Sono dei sistemi variegati, perché ti va da sistemi di ultima generazione sul tratto della metro Campania a sistemi non di ultima generazione ma direi molto affidabili sulla circumvesuviana, a sistemi un po' più antichi invece sulla circumflegrea e anche sul tratto di Benevento Cancello. In particolare sulla circumflegrea io ho trovato un fascicolo aperto che si chiama Bombardier, dal nome della multinazionale americana con la quale vi era stata una interlocuzione per ammodernare il sistema di sicurezza, ma da 12 anni questa pratica è bloccata per un contenzioso che non ha visto mai fine e che purtroppo, per come si è messo, porterà ora in questi prossimi giorni alla risoluzione del contratto, proprio per poter finalmente avviare poi una nuova pratica e quindi ammodernare il sistema di sicurezza. Vi sono 18 milioni di euro stanziati dal patto per la Campania siglato tra il governatore De Luca e il presidente Renzi proprio sul tema sicurezza reti EAV. Su quella linea che sistema c'è? Quello della telefonata di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni? È un sistema che non è della semplice telefonata perché è un po' più articolato, ci sono dei meccanismi di controllo, ma c'è un sistema dove sicuramente se c'è un errore umano evidente, cioè che c'è il semaforo rosso, io dico passa e là ti crea il problema, non c'è dubbio. Però le dico anche che sono 30 anni che c'è questo sistema e lì non abbiamo avuto nessun incidente attribuibile a questo tipo di fenomeno. Allora, professor Rico, resti con noi anche perché insomma perfino in 240 km abbiamo sistemi diversi e questa è oggettivamente una follia. Vi farei ascoltare, ma adesso non ho praticamente più tempo, lo ascoltiamo dopo, anche il tratto della Roma-Viterbo gestita dall'ATAC. L'ATAC! E abbiamo ascoltato il segretario nazionale dell'UGL Autoferro Tranvieri e poi vorrei capire, ecco perché dicevamo basterebbe una legge nazionale che alzasse l'asticella dei requisiti minimi, se no non circoli. Resti con noi, Enrico, GR24. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, vorrei concludere l'approfondimento con il professor Arrigo e poi spostarmi anche al fronte dati sulla povertà. Arrigo, insomma, adesso abbiamo sentito anche del GR24, il ministro dice sciacallaggio. Noi ci siamo permessi modestamente di dire che il binario unico non è un problema, che non si può semplicemente iniziare il balletto con l'Europa e 180 milioni e soprattutto, se ho ben capito, ma vorrei dare una conferma, che il governo ha una cosa che deve fare: mettere una legge di carattere nazionale, come per il traffico auto, cioè non è che il codice della strada varia a seconda che io prendo la Serravalle Autostrade per l'Italia o la Salerno-Reggio Calabria, è sempre lo stesso. Quindi una legge in cui tu non circoli se non hai dei requisiti minimi di sicurezza. Assolutamente, è la stessa cosa che vale ad esempio per il trasporto aereo, dove ci sono regole uniformi negli aeroporti e c'è un unico ente che è responsabile della parte tecnica, della regolazione tecnica della sicurezza, che è l'ENAC. E qui paradossalmente sulle reti ferroviarie è stata istituita alcuni anni fa un'autorità per la sicurezza delle reti ferroviarie che si occupa solo delle reti di RFI e non delle reti minori che non sarebbero state in regola secondo quegli standard. Quindi è proprio un problema di mancanza di regole adeguate e, sì, di un regolatore che sia uniforme. Quindi il problema è a monte, non è tanto nel gestore locale che non ha fatto quei pochi investimenti, quei pochi milioni di euro che servivano ad adeguare la tecnologia, è che nessuno glielo ha imposto. In questo senso, allora, uno può dire l'opportunità, è chiaro che noi abbiamo chiamato in causa ieri anche la famiglia che da sempre gestisce quella linea ferroviaria, perché tu, al di là della legge, puoi anche fare degli investimenti, visto che avevi comprato vagoni nuovi in radica, ci raccontava ieri l'inviato del Sole 24 ore, bastavano 4 milioni per finire quei 33 chilometri dove si viaggiava ancora con la telefonata, per farsi capire con tutti. E su questo la nostra Raffaella Calandra ha raggiunto Massimo Nitti, che è l'amministratore delegato di Ferrotramviaria S.p.A., a cui ha chiesto appunto spiegazione del perché dei mancati investimenti, oltre che di quelli relativi all'Unione Europea. In questo momento è in corso una gara d'appalto che prevede il raddoppio e l'attrezzaggio con blocco automatico. E il blocco automatico è ovviamente un sistema più avanzato, ma quello che aumenta la sicurezza in quanto tale. Il blocco automatico aumenta la capacità di linea, la possibilità di mandare più treni contemporaneamente, ma c'era un treno di troppo e questa è la cosa che è di tutta evidenza. È il treno di Andria che non doveva partire, questo è il dire perché è partito, soprattutto che cosa non ha funzionato la catena di controllo, perché i regolamenti, il capostazione poteva sbagliare, ma qualcuno si doveva accorgere che stava sbagliando. Tutto è strutturato in maniera tale che un uomo da solo difficilmente possa fare dei guai. Una gara d'appalto per il raddoppio della linea e ci saranno anche questi sistemi automatici di controllo. Sembra un po' una beffa adesso, dopo che ci sono stati appunto 23 morti, ma ci sono stati in passato. L'investimento era finalizzato all'aumento della potenzialità della linea. Quindi aumenti di capacità linea significa la possibilità di fare più treni. Fare più treni significa aumentare necessariamente i livelli di sicurezza. Il blocco automatico permette di mandare in treni uno dietro all'altro, anche a distanza di 3 minuti uno dall'altro. Quindi a quel punto i sistemi di controllo della marcia dei treni diventano fondamentali, perché lei capisce bene che quando su una strada preponderante, anche con i sistemi di supporto. Arrigo, mi aiuti lei in conclusione? Io non ho capito, insomma, io capisco che devono giustificarsi tutti, però un conto sono le spese e poi c'è la diatriba con l'Unione Europea e l'Unione Europea che ci mette 4 anni per il raddoppio della linea. E questo è il raddoppio, è un investimento molto più costoso. Questo ci arrivo anch'io, ci mancherebbe. Altra cosa è il blocco automatico, l'RMTS, l'SCMT, blocco elettrico. E appunto i 4 milioni, ma qual è? Non è che stanno facendo un po' di melina apposta per dire sì, raddoppio, così confondi le acque, binario doppio, binario unico, quando il problema era che insomma ci si affidava solo alla responsabilità umana. Ho capito la spiegazione che dà L'amministratore delegato dice: bisognava che un altro desse l'ok, Massimo Nitti, ma sempre uomini si tratta, mentre la parte, diciamo, tecnologica fa sì che anche con due errori umani tu blocchi il treno, se ho ben capito. Ma assolutamente, io ho avuto l'impressione, che sostanzialmente abbiano continuato a usare procedure obsolete che probabilmente vanno ancora bene su linee assolutamente secondarie che hanno due treni l'ora, invece su una linea che ha avuto nel tempo un crescente numero di treni, un crescente numero di passeggeri, che serviva anche all'aeroporto di Bari. Certo, perché, e faceva guadagnare. Perché quindi hanno aumentato il numero dei treni, hanno comprato treni nuovi, più moderni, più efficienti, con l'aria condizionata, ma siamo ancora rimasti al segnalamento dell'inizio del Posso dire che Ferro Tranviaria a questo punto, perché io devo capire anche le parole del procuratore che dice sì, responsabilità sicuramente umana, ma non solo, sarebbe riduttivo. Posso dire che quello su cui si sta valutando è: come mai tu aumenti, sono 200 treni al giorno transitavano, non è possibile su un binario unico, c'è il collegamento che chi conosce l'aeroporto di Bari vede che a Bari c'è il collegamento ferroviario, ci guadagnavi perché appunto era stato fatto un investimento di 71 milioni di euro con fondi europei proprio sull'aeroporto di Bari, e tu hai speso un po' più per le carrozze, lo spiegava ieri bene Mariano Maugeri, anche per motivi di marketing, per quant'altro, e hai risparmiato sulla sicurezza, questo lo si può dire, fermo restando che non hai violato la legge, questo è il fronte del governo, perché Arrigo, se ho ben capito, la legge e quindi lo Stato ti consente di avere non so quanti metodi diversi di sicurezza a seconda delle linee. E poi soprattutto non distingue in modo tale che una linea che comincia a essere parecchio trafficata, 200 treni al giorno è roba da una linea ad alta velocità, tra le più tra le più importanti, quindi non circolano 200 treni sulla Torino-Milano, probabilmente circolano 200 treni sulla linea ad alta velocità tra Firenze e Bologna. Certo. Voglio dire, siamo a livelli in cui non si può pensare di mandare 200 treni al giorno su una linea. Io non voglio unico. Assolvere nessuno, non è un tribunale questo, però è anche vero che l'errore umano è tanto più frequente, ci sono tanti elementi per l'errore umano, l'incapacità, il dolo, la colpa. Però è anche vero, diciamo, possiamo dirla, che esistono dei limiti proprio per evitare l'errore umano. Faccio un esempio che magari non c'entra. Un autista di camion, un autotrasportatore, ha dei limiti su quanto può guidare, perché è ovvio che si ritiene che più guidi, superata una certa soglia, più l'errore umano anche lì può scattare. Allora probabilmente la legge dovrebbe porre, come dice lei, professor Arrigo, anche un tetto, cioè tu puoi usare la segnalazione quella telefonica, come cavolo si chiama, il blocco telefonico, se hai pochi treni, perché le possibilità di errore umano si riducono ampiamente. Quando hai una percorrenza così alta non ti puoi affidare solo alla valutazione umana, perché moltiplichi le possibilità dell'errore umano, capito bene? Assolutamente. Lì ci sono stati tre errori. Uno è l'errore umano, e quello però è prevedibile che possa accadere, e quindi lo si deve evitare la possibilità che accada. La tecnologia c'è, ma non è stata impiantata, non è stata attivata su questa linea. Il problema è che non esistevano regole che imponessero alla società di fare quegli investimenti e di adottare quella tecnologia. O tu fai quell'investimento, su quella linea lì non circola più nessun treno sino a quando non lo fai. Queste sono, diciamo, le procedure di un paese corretto, di un paese moderno. Tu ti devi adeguare, se non lo fai la linea la chiudi. Può aver senso. Sì, anche la risposta è: allora aumenteranno i prezzi per pendolari. Ma perché? Cioè, non è che no, quello assolutamente. Tu ti adegui e basta. Costa molto poco. Sì, la sicurezza costa molto poco. Bastava probabilmente risparmiare una carrozza per, non dico un intero treno, no, acquistare un treno in meno, ma forse acquistare un treno più corto. Noi abbiamo stimato 4 milioni di euro, ecco, no? Dopodiché non è che possiamo ogni volta barattare: ah, ma allora mi aumenta il prezzo del biglietto. No, questo si chiama ricatto, un po' come assolutamente. Cioè, la sicurezza la imponi come standard legislativo, di legge, no? Punto e basta. Poi naturalmente ci sono anche economie di scala, per cui forse potrebbe aver senso. Io sono favorevole alla liberalizzazione ferroviaria, alla molteplicità, all'esistenza di molteplici compagnie, però forse può essere più razionale che il gestore della rete ferroviaria sia uno solo, e quindi affidarla a RFI. Sì, però posso dire una cosa, che il problema adesso, io non è che devo, ma qui ci sono responsabilità individuali, adesso vediamo i due indagati, che è postazione della stazione di Andria, responsabilità private, cioè la Ferro Tranviaria SPA, perché poteva comunque farli, se tu vedi che la rete che gestisce aumenta a dismisura il numero di treni e delle percorrenze, devi porti il problema: quanto regge la struttura? Non è che io il problema me lo pongo solo per legge, perché di mezzo ci sono morti e feriti. E quindi, e poi il danno, poi vogliamo ragionare in maniera ancora più cinica, il danno che adesso tu hai nella gestione dell'SPA è enormemente maggiore rispetto all'investimento che avresti dovuto fare, si chiama prevenire, no? E questo vale anche nel privato. E poi c'è la responsabilità dello Stato, perché Del Rio continua a mio avviso, fare molto fumo parlando di binario, doppio binario, parlando di Europa, così, quando il tema è perché non esiste uno standard più alto che incroci binario unico a quanti treni possono passare, ok? Dopodiché ogni aumento della percorrenza, del numero di treni che percorrono, tu devi aumentare il livello di sicurezza. Mi sembra abbastanza semplice, ma invece se no così ognuno fa che cavolo vuole, prego. Se posso dire, bastavano probabilmente 5-10 righe di una norma scritte 5-10 anni fa per evitare tutto questo. E dire che le regole che valgono per RFI valgono per tutte le reti ferroviarie italiane, certo. E l'Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria si occupa non solo di RFI ma anche di tutte le reti e soprattutto di quelle che sono più arretrate. E poi la beffa, nel salutare, lo ricordo ancora, che a 40 chilometri di distanza dal disastro si trova noi siamo leader in tante cose, al saldo STS, nella segnaletica ferroviaria, e lì si trova la Mermec, che è un gioiello a livello mondiale. Indovinate cosa fa? Sistemi di sicurezza per i treni a 40 km dal luogo del disastro. Questo è un paese che, se non fosse tragico, sarebbe comico. Grazie, professor Arrigo. Traffico. Focus Economia. Allora, ciao Condi, nella Radio Corriere Sole 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Andiamo sulla borsa, oggi tutto sta un po'... ma non è che dopo, guarda, lo dico a chi scrive, nessuno sta diventando scienziato dopo il disastro. Abbiamo imparato anche noi queste cose, dopodiché facciamo i giornalisti e dobbiamo cercare di spiegare. Allora, abbiamo imparato in questi giorni, ahimè, con 23 morti ancora freschi, abbiamo imparato che cosa vuol dire il sistema di sicurezza, quanto costano, ci siamo documentati, nessuno... fa l'esperto, poi gli esperti che invitiamo, sì, perché Arrigo si occupa sempre di trasporto ferroviario, Marino Maugeria con tante di quelle inchieste che mi da basta, per cui, ma stiamo imparando anche noi per capire, perché se devi fidare solo delle dichiarazioni ufficiali, allora prima sembrava che fosse il problema binario unico, binario doppio, poi i fondi europei, poi quelli che dicono no, ma dai, insomma, poi stringi, viene fuori almeno un abbozzo di verità, ok? L'abbiamo, mi sembra, spiegata con chiarezza. CEO, oggi tutte, nonostante, diciamo, la Bank of England abbia deluso, cambiamo tema, non ha abbassato i tassi di interesse, le banche festeggiano: Unicredit più 6,60, Banca Popolare più 5,5, Ubibanca più 5,30, Unipol più 4,40, Pop Emilia Romagna più 4,30, Monte dei Paschi più 4,20 e Pop Milano più 3,40%. Motivo? Ma diciamo che c'è Wall Street che ha aperto molto bene e ha aggiornato i nuovi massimi storici sia con l'S&P 500 che col Dow Jones, e questo è sicuramente un fattore chiave che ha spinto al rialzo non solo Milano ma tutte le principali borse europee, borse che dopo la decisione della Bank of England che citavi tu di non tagliare i tassi, decisione un po' a sorpresa, anche se comunque i banchieri centrali inglesi hanno garantito che lo faranno ad agosto per attenuare le conseguenze negative della Brexit, quindi spinte da Wall Street, bene le borse europee, soprattutto in chiusura, bene anche Milano che ieri era stata la peggiore, oggi è la migliore del vecchio continente, trascinata al rialzo dalle banche. C'è un'attesa, diciamo, speranzosa, positiva da parte degli operatori per una soluzione di sistema per il sistema bancario italiano, una soluzione concordata tra Roma e Bruxelles. Poi, per scendere più nel particolare, sicuramente influisce anche la cessione di oggi di sofferenze lorde di 450 milioni di euro della B per la Banca Popolare Emilia Romagna, che è salita del 4,2%, una mossa che potrebbe essere replicata a breve anche da parte di altre banche e che quindi ha trascinato a rialzo tutto il settore. E questo per quello che riguarda il mondo bancario. Debole oggi Mediaset -1,20, Terna -1,1, Recordati -0,80, Snam -0,50. Vorrei concentrarmi invece su RCS, perché oggi è l'ultimo giorno per aderire all'offerta all'OPA di Bonomi, all'OPS, l'offerta di scambio invece di Urbano Cairo. Il titolo oggi ha avuto un crollo dei volumi e un calo anche del titolo proprio, se ben visto. Sì, perché da oggi, diciamo, i titoli acquistati non possono, sul mercato, non possono essere più consegnati in OPA. Quindi c'è un effetto tecnico che porta appunto i titoli a, diciamo, a vedere i valori scivolare anche sotto il prezzo dell'offerta. Ricordiamo che l'offerta, che domani sera si tireranno un po' le fila dell'offerta, si tirerà una riga, si vedrà chi dei due contendenti ha sostanzialmente ha vinto, diciamo, la contesa e avrà raggiunto la maggioranza del gruppo editoriale. Come noto, le offerte in gara sono due: c'è un'offerta pubblica di acquisto e di scambio da parte di Urbano Cairo e poi dall'altra parte c'è un'OPA della cordata guidata dal finanziere Andrea Bonomi. Allora, gli altri titoli: Sintesi perde 17%, Biancamano il 5,50%, e Lucisano Media Group il 3,60%, Agronomia più 44%, Premuda più 18%, Stefanel più 15%, Prelios più 12%. Va detto che sul listino principale, oltre ai titoli citati, e quindi bancari, si è mossa bene Fiat Chrysler più 3%, Generali più 2,60%, Poste Italiane più 2,30%, non ho citato Intesa San Paolo, ha guadagnato il 2,11%, bene anche Leonardo Finmeccanica, Luxottica ed Eni, tutte in rialzo del 2%. Grazie intanto a Ceo Condina, e adesso iniziamo, lo dico perché lo riprenderemo anche domani, a occuparci del rapporto dell'Istat. Per rispetto al tema del rapporto che riguarda la povertà degli italiani, io mi rifiuto di trattarlo in 5 minuti, oggi sono tanti i temi, e quindi iniziamo a parlare della notizia e poi domani continueremo con l'analisi. Allora, nel 2015 l'Istat stima che le famiglie in condizioni di povertà assoluta in Italia abbiano toccato il livello più alto dal 2005, 1.582.000, per un totale di 4.598.000 persone. Professore Enrico Giovannini, che insegna statistica economica a Tor Vergata, ex presidente dell'Istat, ex ministro del lavoro del governo Letta, buonasera. Buonasera. Giovannini, noi riprenderemo il discorso domani, lo dico per pura coincidenza, domani è venerdì e abbiamo anche la classifica degli sprechi, la pubblica amministrazione, quanto mai tragica visto che abbiamo raccontato anche gli sprechi nel settore ferroviario, però vorrei capire una cosa, la condizione di povertà assoluta, perché è sempre un tema difficile questo, a Milano la povertà assoluta è se tu sei padre di due figli con tua moglie e tutti e due genitori con due figli a carico non guadagnano, o meglio, guadagnano meno di 1.677 euro lordi al mese. Come si fa a calcolare la povertà assoluta? La povertà assoluta si calcola sulla base di un paniere di beni e servizi considerato in qualche modo minimo per sopravvivere nelle grandi città, nel centro, nel sud, è differenziato. Se dunque una famiglia sta sotto mediamente in Italia, una famiglia di due persone, 1.000 euro al mese di spesa è considerata povera in termini assoluti, perché appunto non riesce ad avere tutti i consumi di base. E l'aumento che c'è stato tra il 2015 e il 2014 e il 2015 è molto forte, perché sono circa 500.000 di persone. Però i dati del 2014 forse hanno tratto in inganno alcuni, perché l'Istat aveva specificato che l'apparente stabilità rispetto al 2013 era dovuta al fatto che molte persone che avevano perso il lavoro erano rientrate nella famiglia di origine. E in questo modo, mettendo insieme, diciamo così, le spese e le entrate, avevano una condizione di minore povertà assoluta semplicemente perché la famiglia di origine copriva una parte dei costi. Quindi la verità è che la povertà continua a aumentare, soprattutto tra i minori e tra gli adulti, mentre è stabile per gli anziani, e questo è ormai assodato, dovuto al fatto che mentre il sistema pensionistico in qualche modo protegge la componente della popolazione oltre 65 anni, in generale, non per tutti naturalmente, invece la mancanza di uno strumento che garantisca contro la povertà, uno strumento di lotta alla povertà, fa sì che se un adulto e soprattutto i figli entra nello stato di povertà è molto difficile uscirne. E su questo oggi è intervenuto anche il presidente dell'INPS Tito Boeri, domani lo ascolteremo. Ha detto sulla povertà le misure sono ancora limitate. Il riferimento era ed è alla la Camera ha approvato un emendamento del PD al DDL di contrasto alla povertà. Però ha approvato il famoso reddito di inclusione, una misura nazionale di contrasto alla povertà. Domani vorrei parlare di questo, cioè delle misure con lei, Giovannini, di contrasto. Boeri dice che ancora sul contrasto alla povertà l'Italia non ha gli strumenti che vi sono negli altri paesi, le misure prese sono parziali e limitate, e definisce preoccupanti i dati di oggi. Torneremo a parlarne domani, perché ripeto, per rispetto al tema. Intanto ringrazio, gli do appuntamento domani. Ringrazio Enrico Giovannini, auguro a voi in ascolto una buona serata, ci risentiamo dalle 17 in poi, purtroppo anche con la poco invidiabile classifica di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.